Buona giornata a voi. Io ho seguito il consiglio di una mia amica e ho iniziato ad usare lo zenzero fresco in cucina. Lo aggiungo qua e là, a volte al posto dell'aglio, e quando indovino, devo dire, l'abbinamento è molto buono. Ad esempio con le patate, mi è venuta bene anche col pesce. Professor Pietta, non è il suo forte la cucina, ma lo zenzero, oltre a essere buono, ha delle proprietà salutari, è vero? Sì, difatti sono molto note le attività benefiche dello zenzero riguardo la digestione ed anche la prevenzione del mal di moto, ma soprattutto lo zenzero è importante perché è un forte antinfiammatorio. Già nel 2001 lo zenzero è stato oggetto di studio su soggetti sofferenti di osteoartrite al ginocchio. E cosa si è visto? Che i soggetti che avevano assunto estratto di zenzero praticamente avevano una diminuzione significativa del dolore al ginocchio quando stavano in piedi oppure dopo una camminata, stando seduti. Il risultato importante perché le persone che non avevano assunto zenzero invece non avevano avuto nessun effetto. Questa è una buona notizia, quindi per tutti i dolorini. Nel 2001. Allora, è sorta tutta una serie di studi che hanno confermato queste proprietà antinfiammatorie dello zenzero, ma soprattutto hanno individuato quali sono i componenti responsabili di questa attività. Sono appunto, come diceva lei in premessa, quei componenti pungenti dello zenzero, cui alcuni gingerolo, shuagolo, nomi un po' particolari. Questi cosa fanno? Praticamente impediscono la formazione di composti mediatori infiammatori a livello delle articolazioni, impediscono quindi i danni alla cartilagine e i danni alla membrana sinoviale. Pertanto lo zenzero costituisce un rimedio utile per contrastare l'infiammazione tipica dell'artrite. Lo zenzero poi ha una caratteristica, ben tollerato, non ha effetti collaterali come si verifica invece in alcune persone quando prendono gli antinfiammatori sintetici. Anzi, lo zenzero può aiutare a tenere sotto controllo l'ulcera, perché addirittura contrasta la crescita dell'Helicobacter pylori, un microrganismo appunto che determina, è una delle cause principali dell'ulcera gastrica. Queste sono tutte proprietà dello zenzero provate e testate dalle ricerche, vero professore? Provate. Poi lo zenzero tiene bassa anche la glicemia. Per concludere, una curiosità, la scienza scopre ciò che la tradizione già conosceva. Difatti lo zenzero da tempo viene usato in comunità rurali indigene per il trattamento di disturbi infiammatori particolari, in modo particolare. Quindi abbiamo scoperto ciò che l'etnomedicina già praticava da anni. E allora, nei libri di cucina trovate molte ricette con lo zenzero, classici sono i biscotti, ma sbizzarritevi anche voi a mescolare i vari ingredienti per delle ricette nuove, dal gusto un po' stuzzicante e pungente, che abbiamo capito che è proprio quello che ci fa bene, e sicuramente la nostra dieta ne trarrà benefici. E anche la nostra salute. Professor Pietta, grazie e buona giornata anche a lei. A voi, buona giornata, a presto. Grazie, appuntamento allora a domani. Se avete scoperto delle ricette con lo zenzero, mi raccomando, scrivetele anche a me, le proverò, poi ce le scambieremo. Appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Buona giornata.